Shabba da di di do, da di do di di da, di do di di do, ya di do di, shabba da di di do, da di do di di da, di do di di do, ya di do di.